We'll return now briefly to the verb avere, to have. Here it is followed by some masculine and feminine nouns. Io ho un passaporto. Io non ho un passaporto. Tu hai una camera. Tu non hai una camera. Lei ha una prenotazione. Lei non ha una prenotazione. Noi abbiamo un ascensore. Noi non abbiamo un ascensore. Voi avete una chiave. Voi non avete una chiave.